dal Salone delle Feste del CL Como, va ora in onda Barbara Streisand. Anch'io ascolto Open Cast Alpha. Sì, mi scusa. Ogni tanto mi chiedo perché continuiamo a far entrare certe persone. Sai che è partito un rumore strano a un certo punto. Sarà... Sì, tipo, bravo. Come hai fatto a capirlo? Carogna. Allora, Open Cast Alpha, il... Puntata speciale numero? 88. Più o meno. 40 più 40 meno. Esatto. Smettila, non mi distrarre. Il podcast tecnologico disimpegnato impegnato del GL Como, questa settimana Polenta e Usei si prendono... Cos'è il sottotitolo? Sì. Si prendono Usei e se copano. Sono successe molte cose queste due settimane in cui non ci siamo visti. Per esempio. E alcune le abbiamo... Tu. Io invece mi sono visto. E molte le abbiamo perse, per cui ve ne racconteremo altre. Molte le abbiamo perse, molte le avete già lette, per cui cosa ci resta? L'Oculus Rift 2. No, ma non hai detto perché questa è una puntata speciale, l'hai detto. È una puntata speciale questa. No, il perché è una puntata speciale. Perché è una puntata speciale questa? Non so se ce la faccio io oggi. Siamo in registrazione dalla sede del GL Como, abbiamo diversi ospiti stasera. Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Dante. Visto? Ce n'è un altro. Buonasera. Io sono Antonio. Buonasera. Visto? A tutti. Quanta gente. Prego, prego. Invece sono Fabio e ho il mio microfono. Vedi, lui c'ha il suo personale. Non cioè, ho mica capito, ma l'ha portato da casa. Esatto, sì, e quello rosa è carino, non è male, sì. Devo dire la verità. C'è il fiocchetto. E tutti i peletti che mi danno un po' fastidio sotto il naso. Beh, sì. Sì, un po' sì, però c'è a chi piace. Siamo qui nella sede del GL in circoscrizione, grazie al comune di Como. E siamo qui a parlarvi della tecnologia, ma della tecnologia che è un po' open, un po' più o meno al 100%. Un po'. Circa. Mica tutto. La musica che noi mettiamo è sempre la solita. Abbiamo messo un pezzo che non abbiamo mai messo. Allora, si dice che è sempre la solita, nel senso che arriva sempre da Giamendo, il nostro sponsor ufficiale della musica open. Non che i brani che metteremo questa sera saranno sempre gli stessi triti. Secondo me sì, sono sempre gli stessi. Ma no. Smettila! Prima notizia. Allora, Oculus Rift. Quindi, che qua visore... tutti sanno cos'è l'Oculus Rift. Allora, è un visore per la realtà aumentata. Quindi è un coso che ti attacchi alla faccia, non vedi più tua mamma che ti insulta, ma vedi della realtà aumentata in cui c'è tua mamma che ti insulta. Allora, io farei la prima... sì. Farei la prima domanda. Allora, hanno appena... annunciato la versione di sviluppo della seconda versione, sì, di K2 si chiama, di K2, di questi occhiali che venderanno al modico prezzo di $350, ecco, quindi circa 270. Tu lo comprerai? Ma non ho capito. Penso proprio di no. Non capisco perché no. Nel senso, è una cosa che potresti utilizzare in bagno o così. Non mentre cucini, perché tu mentre cucini potresti, non lo so, fare una cagata a casa tua e in realtà vedere, non so, dell'anatra all'arancia. Parlavo del bagno, a proposito. In senso metaforico, ovviamente. Sì, sì, in senso metaforico. Metaforico, perché la fai in cucina. Esatto. Comunque, non è che puoi usarlo in altri locali. Vabbè. E quindi? No, ma è carina come cosa. Cioè, vuoi comprarti... in camera da letto? Sei sempre da solo, ti ricordo che... voglio dire... non c'è la versione doppia, nel senso, non hanno ancora fatto quella con cavo. Ognuno vede il proprio, in parte. Sì, fondamentalmente sì. Sì, sì, sì. Lo stesso film ha due realtà diverse. Esatto. Esatto. Non è male. Tipo, tu fai il regista e la tua fidanzata... E tu stesso, perché sei da solo. Non fa il regista. Diciamoci la verità. C'è se sei in camera da letto con gli occhiali della realtà virtuale... Aumentata. Chiamiamola realtà aumentata. No, no, questa è proprio virtuale. Se sei in camera da letto con gli occhiali della realtà virtuale, secondo me sei da solo. Sei da solo. Diciamo, okay, diciamo proprio così. Perché se sei in due... se sei in due, forse l'altro non ti piace. Si toglie l'occhiale. Allora, torniamo a noi. Prego. C'è questo occhiale, tu te lo metti, ma le versioni nuove cos'hanno in più? Vabbè, una risoluzione migliore, poi hanno dei sensori un pelino più accurati, si parla di accelerometro, magnetometro, bla bla bla bla bla bla. Penetrometro. E in più hanno integrato anche... uno strumento che sono geologi, banelingue, a pensarci. Veramente mi chiedo, ma perché non, sei fortunato che non c'è l'anometro. Avete lasciato aperto la porta. Poi allora io mi chiedo veramente, ma perché non le registriamo in bagno? Vai, mettiamo vai, l'Oculus no, Rift. No, perché dopo in bagno sai com'è l'eco. Da cosa nasce cosa. Esatto. Allora io ve lo dico, però poi altro che rumori strani. Fatene quello che volete, c'è anche la webcam. Vabbè, passiamo oltre. Basta, fine della... basta, io me ne vado perché... basta la musica. Cioè, la mia notizia l'ho data, basta. Quindi hai fatto il tuo lavoro? Sì. No, ma c'era Fabio invece che aveva una notizia su cosa che voleva darci. Alla fine sei venuto, è giusto che tu... hai proposto le notizie, adesso lo devi dire. Così imparo. Non è che puoi lanciare la notizia e poi nasconderla a mano, eh? Beh, posso nascondere il quotidiano. No. Dimmi, beh, di cos'è che volevi parlare? Un progetto per fare un bel filmato open source, un progetto Gooseberry. Che cos'è? Vabbè, io ho letto la notizia. Si tratta del nuovo progetto di Open Film della Blender Foundation. Ah, sì, ho letto una mail che girava. Ne abbiamo già parlato negli anni scorsi, quando hanno fatto i precedenti progetti. Come sono andati? Sì, c'è Big Bug Bunny, Tears of Steel, Elephant Dream. Diciamo che tutti questi progetti che sono stati fatti fino ad oggi sono stati realizzati grazie ai risparmi di Fabio. Diciamo che una parte, Se voi... una piccola parte, perché chiaramente Ho comprato. Scusa, devi venire qua più vicino perché. Sì, a casa mia, nella realtà aumentata. C'è il famoso Open Cinema. Sono state fatte delle proiezioni. Il cinema all'aperto. Una volta era il drive-in, adesso è l'open cinema. Non era cinema all'aperto. Sì, più o meno. Non era così? esatto, state fatte, eccolo delle, lì, delle proiezioni sono state fatte di questi filmati alla, hanno fatto la prima alla, durante proprio la presentazione durante, quando è stato rilasciato, diciamo, per raccogliere i fondi, insomma, poi sono scappati, no, dalla cassa, perché no, i fondi, no, sono stati raccolti prima. E poi sono state organizzate delle proiezioni anche in Italia, a Roma in particolare, di sicuro, perché c'è una società che produce effetti speciali anche a livello di cinema, che usa Blender nella, diciamo, nel suo lavoro, e ha organizzato proiezioni. No, poi i video sono belli, perché a me sono sempre piaciuti questi... Ma il trailer è molto simpatico. Sì, io l'ho ancora, non sono ancora riuscito a vederlo, perché c'è un potentissimo mezzo la di mia versione te, di Gentoo non... sta già registrando, sta già, facendo, non è multitasking, no? Cioè... sì, ma senza esagerare, ma okay. Non, la cosa giusta, ma non quello che c'è dietro al, la cosa interessante, è lui che è lo speaker che non è multitasking, è l'utente, esatto, che non è multitasking. La cosa interessante di questo progetto rispetto ai precedenti è che mentre i precedenti erano dei corti, per cui sì, durata massima di 10 minuti, esatto, questo sarà un lungometraggio, per cui sarà un film vero e proprio. Sì, sì, sono, sì, molto, sì, curioso di vedere. Io stavo pensando, quasi già... quasi ci dovremmo mettere nei titoli di coda sponsorizzato da GL Como. Cosa ne dite? No, io vado per i fatti miei. Parlatene. Cosa vuoi dalla mia vita? Parlatene, se no ci chiamiamo tutti Fabio. Per esempio. Potremmo fare anche una cosa di questo tipo. Va bene. Esatto. Dopo avervi fatto ascoltare in apertura... Beh, 5 euro non si legano mai... nessuno. Eh? 5 euro non si negano nessuno. Una dammi 5 euro, qualcosa di più, forse per il doppio DVD che di solito fanno. Non so, però cosa faranno, ne vale volta. La pena. 10 40 doppio DVD con tutti, spica, i sorgenti del, posso dire, pure spica, i sorgenti, sì, allora sì, azzi. Anzi, spica. In realtà l'ultimo dovresti dire azzi. Azzi, bravo, ho detto stica. Stica, Nico, parte Stick House, che è un, vabbè, noto locale, comunque... mi sponsorizza. No, dicevo che l'ultimo che hanno fatto, Tears of Steel, in realtà non c'era tutto il sorgente perché era troppo grosso, ma è disponibile da scaricare da internet tutto, comprese i girati 12 comodi mesi di scaricamento in 4K. In 4K. Hanno girato con una telecamera RED, che è una telecamera professionale che riprende in 4K. Tutta rossa. Sì. È molto bello. La riconosci? Stavo dicendo... Quello dalle multe. Cosa stavi dicendo? Stavo dicendo che abbiamo aperto con un pezzo che non avevamo mai sentito prima, è dal vero, titolo vero, Sing Along, vero, del nostro gruppo preferito The Patinets. Mai sentito prima. Io farei una cover fatta da un altro complesso di dello stesso pezzo, dello stesso, sì, pezzo. Esatto. No, questi sono un altro gruppo che non abbiamo mai sentito. I Budini Molli. I Pornofonic. No, esatto. Pornofonic, no. Con un brano che non abbiamo mai sentito prima. Space, ma di che cosa parla? Parla praticamente di questo qua che chiede agli alieni di portarlo via perché non è contento di stare sulla Terra. Anche Finard aveva fatto una cosa del genere tempo addietro. Sì, è vero, probabilmente è una cover di Mio Finard. Vecchio Scarpone, mi pare si chiamasse. Esatto. Vecchio Scarpone. Space Invader. Non chiudeteli. Take me home. So can you take me home? Can you take me home? Can you take me home? Mi pare che di solito adesso entravamo con Space Invaders. Mi pare, ma non, visto che è la prima volta che la sento, non lo so. Bravo. Cosa ti devo dire, bravo? No, no, mi pare che, però, vabbè. Bella questa musica, Space Invaders. Se vi siete, se vi siete sentiti degli alieni o degli invasi, fatecelo sapere. O degli invasati. Anche. O dei vasi. Anche. O dei vasi. Oh, no. Smettila. La notte. Dei vasi comunicanti. Allora, comunichiamo questa notizia. È ufficialmente stata rilasciata Debian 8. Ecco, io ho appena aggiornato alla 7. Vabbè. Cioè, non si può. Uno prima passa gli anni, ma dico, no, a non dover aggiornare. Ma no, ma è la versione alfa della testing. La versione alfa della testing. Se va, è una scommessa. Allora, sì, un po' sì. Debian 8. Posso metterla sul server? Sì. Ma c'è quello di produzione. Non c'è la live. C'è, no, l'installer. C'è l'installer. Ma posso fare un dist upgrade? Non credo. Si chiama Jesse. Jesse. Cioè, come quelli della lavagna. No, torna, no, a casa Jesse. Torna a casa Jesse. Allora, stiamo parlando di Toy Story, quindi sarà un personaggio di Toy Story. Ah, è quello col naso a patata, gli occhi a patata, la testa a patata. È una patata. Ah, sì, è vero, quella è la Mrs. Patata. È vero. Allora, dire, novità di questa Debian 8. Dai, spara. Il logo. Hanno cambiato, adesso la fanno aspirare, ma al contrario. Non ci credo. Scherzavo. Ok. Ci sarebbe voluto almeno due anni, sì, di discussioni in mailing list. Come minimo. Allora, la cosa che più cambia è il kernel. Ma posso fare una domanda tecnica? Aspetta che mi metto una... No, cometa. No, per favore. Aspetta. No, no, no, volevo sapere che sistema di init usa. Ma ancora non si init sa. Init D? Nel senso, per ora c'è un... Scegli il tuo init o scrivitelo. Ah, è interessante. C'è proprio il menu, scrivitelo. Scrivitelo. Sì. Un editor di testo. Sì. VI, scusa. E ti dice scrivere. Io tornerei al vecchio Edlin, se qualcuno anche se lo ricorda. Sì, sì. Un bel CPM, non si toglie nessuno. ED. Allora, vai. Volete sapere la novità? No. Sì, sì, sì. Ah, sì, dicevo. Sì, sì. Kernel. Dal 3.2 si passa al 3.13. Cioè, io non lo so, però avrei aspettato un numero pari, perché di solito i numeri dispari dei kernel hanno sempre menato sfighe e sono sempre stati... Ma il numero pari, specialmente il 13. Per esempio. I numeri pari non sono quelli di sviluppo. Appunto. Ah, ok. Capisci che c'è già qualcosa che non va in quello che fai. Sì. E poi una cosa sensata che veramente io me lo chiedevo da un po', ma come mai non lo fanno, sono passati a XFCE. Come desktop predefinito. Sì, sono passati a XFCE come desktop predefinito. Ma sarà perché Gnome 3 è una merda? Ma facciamo un'indagine di mercato. Dai, dai, dai. Che desktop usi sul tuo Linux? Gnome. E uno. Ho capito, non vale. Siamo già in due. Ho capito, ma due contro mille. Vabbè, per dire. Per esempio, allora chiama Elena perché lei non usa un desktop. No, chiama Diego, lui non usa un desktop. Vabbè, cosa vuol dire? Non usa un gnome. Command line brutale. Sì. Va bene, altre novità di rilievo? No, funziona. Funziona. Beh, non è detto. Non è detto, è una beta del testing. È un alfa. È un alfa della testing. È un alfa della testing. Cioè, se volete proprio provarla, è una scommessa. Comunque, sono state tirate via alcuni supporti per alcune piattaforme, non dico obsolete, ma mai realizzate. Scusa, ma se togli un supporto, supporto, non è che poi traballa? No, si chiama e il supposto team si arrabbia. Supporto, ok? Bene, porta pure. Comunque si parla di il supporto per la Intel, quella, com'è si chiama? IA64. Sì, quella che non ha mai fatto nessuno. Che nessuno, infatti, perché non è mai stata creata. Poi il supporto per abbiamo un commento diretto sull'architettura Intel IA64. Ma bisognerebbe passare. Mai sentita in vita mia. C'è, ok, grazie. C'è un motivo, devo dire la verità. O la tua vita è stata vuota oppure la IA64 non ha mai visto la luce quasi. Vediamo, scusi passante, mi scusi, lei la conosce? Hanno realizzato delle macchine. Sì, vabbè, 64. La Panda, mi pare, e no, poi quella della Dacia quando, Panda. No, all'epoca la Dacia Logan. No. All'epoca quando è nato era veramente. Ma allora. Peccato che sono passati 10 anni, forse di più, e nessuno ha più sviluppato nulla. Chissà, è come il COBOL, diciamo. Non parlare del COBOL, COBOL è. Fondamentale. No, dico, lo usano ancora. Per carità. Io lo sto usando ancora. C'è anche l'architettura. Nessuno è perfetto. Ecco, c'è l'architettura S390 che è moriuta ed è passata all'S390X. Queste sono cose importanti da sapere, sì. Sì, sì, devo dire la verità. Va bene, notizie di rilievo. Nessun'altra. Che palle che sei. Io no, mi chiedo per dire, veramente perché. Ma gira ancora sul tuo ARM. Sì, e in più stanno iniziando a supportare anche la virgola mobile hardware. L'hard float. Mi vedo molto eccitato. Sì, sì, sì, sì. Questo comporta che? Niente. Ok. Vi ricordiamo che tutta questa, diciamo, consistente mucchio di notizie che vi stiamo dando, potete trovare quattro. No, ma è proprio l'insieme, cioè sono quattro, ma sono spalle. Le parole sono commentate, quello che aggiunge valore è il commento proficuo. Io mi chiedo profondo. Veramente perché butto via il mio tempo con voi. Io vi siamo invito simpatici a lasciarci dei commenti sul nostro sito. Mi chiedo perché butto via il tempo con voi. A lasciare dei commenti sul perché butta via del tempo con noi, così. Posso dare una notizia adesso seria, che serve proprio? Indispensabile. Allora, chi conosce PVN2OVN? Era un robot di Guerre Stellari. Sì, ma senza il 2. Ah. Quindi col 2 è? Col 2 è? Due robot il di Guerre Stellari. Bravo! Non lo so lui. Il figlio degenere di quello stesso robot. No, lui ha bevuto del VOV. Io ho bevuto del VOV e lui invece ha fatto l'uovo. Perché se ce le scrivessero, scriverebbero. Se noi le avessimo scritte, saremmo veramente messi male. Ma noi sappiamo anche scrivere queste cose. No, se vengono spontanee, va bene, c'è una giustificazione di carattere generale. Sì, il neurone. Le pondera, esatto, lì le tonanti generiche cadono del tutto e si viene puniti. Esatto. Allora, se non volete farmi dire questa notizia, basta dirlo. Non vogliamo farti dire. Ok, allora PVN2OVN è un incontro di hacker che si sono incontrati il 12 e 13 marzo, sponsorizzato da HP per bucare dei browser su sistemi HP, ovviamente. Penso. No, più che altro c'era pubblicità HP ovunque e i membri sono stati tatuati, senso i membri dei... No. Esatto, sono stati marchiati a fuoco. Comunque queste persone erano lì, erano organizzate in gruppi, non è facile, e dovevano bucare questi browser. I browser in questione erano Firefox, Safari E Cro è me. La perfetta pronuncia ci lascia esterrefatti. Allora, per piacere, che sto dicendo delle cose importanti, non mi fate questo perdere il filo. Questo ci lascia ancora più strano. Comunque sono stati bucati tutti. Che strano. Il più bucato è stato Firefox, che in due giorni è stato bucato 4 volte. Questi gruppi prendevano dei soldi, un tot a volta che veniva bucato, in base a quale veniva bucato. Firefox con Mozilla è quella che pagava meno. Esattamente, perché pagasse meno è il motivo per cui hanno trovato più bachi. È vero, è vero. Così è vero, impara vero. L'anno esatto. prossimo. Esatto. Comunque sono stati bucati tutti. La cosa carina è che questo contest è stato chiuso il 13 marzo. Il 18 erano uscite le patch per sistemare tutti i buchi trovati in Firefox. Questo vuol dire che dobbiamo aspettarci la versione 190 al 28, siamo già a 28. La cosa carina è che già uscita e installata la versione 28. Ti funziona ancora? Fantastico. No. Sei una merda, perché tu hai un sistema diversamente Gentoo. Comunque, diciamo le cose come stanno. Nella mia Gentoo non riesco ancora ad aggiornare. Così, incidentalmente. Però non sono quei bachi che mi danno i problemi. Sono l'unica altri che mi danno che problemi. Persona che usando Telnet sulla porta 80. Esatto, perché è l'unico modo per vedere a occhio, per vedere YouTube TV, e YouPorn. Un genio. Siamo arrivati al momento della mia rubrichetta o no? Biplum. Ma la mia sigla? Scusami, no, veramente? No, adesso non mi sembra. Va bene, allora faremo la sigla, aspetta, vediamo. Che sigla ti metto? Devo sceglierne una bella. Questa qua che si intitola Tritura Dentes. Allora. Preoccupate. Va ora in onda la rubrichetta di Davide, ovvero sia come perdere un altro 10, 15, 20 minuti nel niente. Conduce in studio Davide. Allora, se riesco sarò un po' più breve. Microview, un chip con Arduino e display Olimen. Basta, finito, ciao, alla prossima volta. Mi hai fatto arrabbiare? È così, va bene? Vuoi che vada avanti? Vado avanti. Anche se tu non volevi. Tanto anche se dicevi di no, tu eri lo stesso. Esatto. Allora, i microfoni sono miei e decido io, ok? Questa è vera democrazia. Sono miei i microfoni. Ognuno è libero di fare quello che dice lui. Maledizione. Allora, io girando nel www ho trovato questo progetto su Kickstarter. È un progetto ganzissimo, Microview. È un mini display OLED. Veramente carino, perché è proprio azzurrino, è fatto bene, mica babau micio micio. Con sotto dei piedini. Questi piedini sono collegati a un chip che è Arduino compatibile, per cui hai degli ingressi, hai la possibilità di programmarlo. Fantastico. È molto bellino, perché ti permette di programmarlo, di farci delle cose, di collegarci dei sensori, bla bla bla bla bla bla bla. Ma è anche ganzo, per cui c'è una foto di una tizia con la collana con attaccato questo coso. Questo è un po' la stessa unità, diciamo, di misura, esatto. Unità di misura che usi per scegliere le canzoni sui infatti, Gemini. Infatti. Dipende da quanta donna c'è nella copertina. Ah, esatto. E quanta parte di questa donna è scoperta. Esattamente, infatti, bravo. Vedo si che chiama grado di ricopertura. Esatto. Infatti non è la copertina, ma è la scopertina. Guarda. Cioè, devo dire, sarà una prima questo seno. Però comunque è fatto bene. Si la vede prima. Veramente sei veramente senza commento. Ma perché io, nel senso, io hanno penso alle persone per che meno. Guardano queste. Esatto. Scusa. Lui apprezza la tecnologia. Se poi la tecnologia, per sue ragioni, deve essere esposta bene, non c'è niente di male. Voi nell'apprezzare che la tecnologia. Allora, ho visto gente in galera per molto meno. Sì, anch'io. Va bene, allora, non sapevo fosse minorenne, va bene? Vai pure avanti. Allora, la cosa carina di questo dispositivo, che è facilmente programmabile, che è Arduino compatibile, per cui tutto quello che potete attaccare su un Arduino è collegabile. Ha una porta che volendo è anche USB. Potete attaccarlo, per esempio, in un test l'hanno collegato a un Raspberry e vi dice quanta memoria è occupata. Ma la cosa più bella è attaccarlo a una collanina e... cioè, e col cuore che lampeggia. Scusa se faccio un riassunto per vedere se ho capito. Rinchiuderlo? No. Rinchiuderlo. Sì, adesso lo chiudiamo. No, volevo capire questa cosa. Cioè è un Raspberry, scusa, è un Arduino piccolo. Piccolo, con un display OLED. Esatto. E basta. E che cosa ho detto io? Cioè, tutto qui. Hai parlato per mezz'ora. E quanti soldi vogliono per lo sviluppo? Perché stiamo parlando di un progetto finanziato dal basso. Per cui è un progetto che potete trovare su Kickstarter. Sì, c'è Pellegrino anche qui. Dal basso, ma non dal basso ventre. E non dal basso dietro, insomma, dal basso. E basso. Loro volevano $25,000. E quanti gli erano andati? Tutti. 108,000. E è appena partito. Quanti giorni c'ha ancora? 27. Però, aspetta, se ce la fanno. Io non è che dico. Ma però io un pensierino lo farei. Gli hai già dato alla copertina? Non tutti, nel senso, mi hanno detto che se facevo 1000 euro di investimento mi davano il numero della prima. Ah, ok. E effettivamente il numero è arrivato. Il problema è che questa non ha risposto. Anzi, poi quando ha risposto ha detto: ciao, mi chiamo Mario. Va bene, su queste note dolenti io chiuderei questa tua rubrichetta, se permetti. Va bene, chiudila pure. Posso chiudere? Chiusa. Grazie. E intanto che abbiamo chiuso questa rubrichetta, siamo arrivati anche in fondo a questa puntata speciale di Opencast Alpha. Questa sera riusciamo a stare dentro a una tempistica umana dei 30. Tagliala adesso, così. Tagliala, secca. Siamo riusciti a stare dentro i... Basta. Okay. Vi lasciamo con un ultimo brano, un gruppo che non abbiamo mai sentito prima. Loro sono i Retrosonic con il brano Until the End, che casca a fagiolo. L'hai scelto apposta? Sì, l'ho messo lì apposta per quello. Vuoi dire qualcos'altro? Salutare la mamma? Niente. Ciao mamma. Ok. Io volevo salutare chi era con noi stasera a registrare, che ci ha supportato. Tecnologico di impegnato del DL Como. Tutti i link e le puntate su www.dl-como.it. Complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile.